vediamo i watt adesso. Ecco qua. Meno a farlo troppo di watt, che non ce ne siano più di 4 meno. Cosa tu? Che non ci siano più di 4 watt, mi raccomando. Questo è 5 watt allo strumento. Ti stavo facendo il video dei watt. Non più di 5 watt. Ok. Ehi, ho visto, mi va bene così, ok. Io lunedì c'ho un po' di cose da fare. Lunedì come mi libero e vengo, lo prendo e basta, ok. Hai visto che bestia che sto programmando, il turbo. Sono perfetti, solo sopra quelli. Lo so, vuole sgraffiato, vuole rifatto a nulla. No, per il resto funziona. Peccato anche lineare. Sì. Peccato che sopra sia un po'. Adesso sono attaccato. Oh là. Sto provando, vedi, ho messo in scala 100 watt, questo è 10, 100, 1000 watt. Tappo non è che mi piace assai di lungo, no? Anzi, non so quanti anni ha questo. Un po' così, un portoledo. No? Portoledo è il tappo, un po'. Il tappo? È un po' di gas, ed è un po' di fatto male. Ma di cosa parlo? Ciao fa. Vabbè, ciao. Vabbè, dai. Non ho capito di cosa stai parlando però. Un tappo, un po' gufeo, un tappo per me. Se te l'ho detto, io per quello ti ho mandato il video. Ma come hai detto tu, una bassata di bomboletta e lo fai a nuovo, compri un colore che si assomigli. Sì. Se niente non me la fatti, non dare. Compri il nero. compri il nero e te lo fai nero, oppure un grigio scuro. Adesso vedo un po' cosa fa. Questo è un grigio scuro, diciamo così. Facciamo ciò, lo facciamo il rosso Ferrari. Anche il rosso non sarebbe male, ma era per tenere il suo colore originale. Di nuovo a 30 anni con il rosso. Ma è comodo perché è tutto in uno. Ma è buono anche. Questo fa tutto. Dagli 80 metri alle VHF. Quello? Sì, fa anche 2 metri. Questa è la foto, aspetta. No, questa è la 27, buh. Ma anche che va di così, perché se uno c'ha un apparecchio HF può controllare anche quello. Va bene. Guarda, ti ho mandato la foto. Vuol dire. Sì. Cioè, non hai fatto giù la 27. È carino, però. Giustamente ce l'aspetta. Ma se rivendici il coperchio e ritorna bello, perché frontale non c'ha niente per le tacche alte. Quando stai dando il trasparente al coperchio, magari isoli le scritte e dai il trasparente anche al frontale. Ho capito. Sì. E vabbè, i tappi di questo baracchino li avevo cominciati così, questo baracchino è struginoso. Capito. Poi ho fatto quel disegno in alto, intanto era una cosa che mi stavo tenendo io. Ho capito. Già andava bene, mi va bene, ma la 48 mi va benissimo. No, niente da dire. La razza di immagine che l'hai fatto. Le ho fatto un disegno sopra, non c'è neanche il trasparente, le ho fatto così, a chi fa già dai quei coperchi. Ma questo è quello, Questo che sto usando. Ma il mio microfono non va bene. No, ho capito. Il mio microfono, quello non va bene. Non hai visto che mi hai detto che c'è basso. Questo è il mio. Non è che siamo il buruviccio, però stavo pensando, se tu guardi dentro, c'è da leggere, se gli apri un pochino, li metti quello, funziona bene. Adesso stasera faccio tutto, te lo faccio risentire magari con le luci aperte. Ma dove cambia? Non lo so, devo aprirlo a vedere quanto è chiuso, quanto se è quanto aperto. Io ti aggiorno stasera, dai, ok, va bene. Ehi, dai, che fai, mi metto a fare roba qua, non me ne esce più. Sì, ciao. Provare un pochino. legge che so io sangue, io ero amico mio. La nina iglesia ante, aspettare un attimino. Lo faccio scaldare ancora un po'. parlando tu? Vado sul... no, sul 40. Ui, Billy, su che diamo? Attento Brigido, se ascolti questa piccola chiamata. Ui, biondo. E allora, cosa mi racconta lì? Sì, adesso me la sono alzato. Adesso mangio e si parte. Ragava. Tanto per cambiare, no? Se no mi prendo l'abitudine. Cazzo, che brutto vizio che ti hai preso. Quella è una malattia come quella che avevo preso io, mi. Il vizio di andare a lavorare ti hai preso. È così, è un brutto vizio veramente, Natali. Mi pare che non vado più a che non faccio più gara. No, che bisogna andare a casa. Se vuoi mangiare, se vuoi continuare a affittare, bisogna che andi a travagliare. Per carità. Ma per carità, per carità. Ah, è pittino. Se tutto va bene, siamo rovinati. Sì, ma se tutto va bene, però... Luigi, ne siamo stati roba di 500 camion. Orari, uscite, mamma mia, fuori di testa. Ah, devi segnare quelli che entrano e quelli che escono, così. E allora, gli operai del cantiere. Cazzo. Un casino, ma te li lascia perdere, da uscire di testa a tutti, da spararsi pure, a me mi viene il cazzo l'esaurimento. Cosa fai? Andi imbriaco, andi. E io se non manco non ti muore di nulla. Già che casa rimane io ti chiedo della sicurezza, no? E lei non è il box, stavo facendo, mettendo a posto le giornaliere, se ne hanno le date, tutto quanto, mi rivede io e fa, ce la mette il giubbottino, si mette il giubbottino, un attimo, si mette il giubbottino, sono dentro qua e sto appena sistemando queste giornaliere e poi mi hanno messo il giubbottino. Se mi diceva che devo mettermi anche il casco, lo pigliavo per un pulito, il casco, perché il casco nel giubbo nella gabbiotta usava il mongo, lo casco il mongo. Lo so, è per questione di sicurezza, mi, che te lo dicono. Mi rilasso dal 95, credo. Sia del giubbottino che del casco. Come stai? Cioè, dentro un cantiere non puoi stare senza le cose protettive. Già lo so, ma cazzo, guarda la cosa più importante, no? Guardare le cazzate. Guarda, quando noi stavamo lavorando in via Milano, si fermava sempre l'ingegnere della sicurezza, ma a vedere se era tutto a buccio. Non vi credo, ogni giorno a cazzo si fermava lì a vedere se era tutto a posto. Ma questo qua è un ciuccio. Allora cazzo, è comprato una mazza. Ma chi due ingegneri, ma la giusta li ha comprendia. Sta ciaffava poco un cazzo che non mi cura guai. Anche perché lì era una strada pericolosa e bisogna che era tutto messo come si deve. Sia la segnaletica, il cambio dentro, in modo che non poteva passare nessuno. E bisognava controllare per vedere se avevamo le scarpe antinfortunistiche e tutto. Si controllava. Si filmava la campagnola e controllava tutto. Aspetta un attimo, Natali, che mi stanno chiamando. Signore. Attento Luca, ci sei? canale 10, attenzione canale 10, canale 10, brecco brecco, c'è qualcuno? Attenzione canale 10, canale 10, copiate Antonio da Fagappa. Hola, hola chicos. Attenzione canale 10 K. Che si può dare una chiacchierata, va? lì